ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Milan e aspetta! Milan e Manera, Champagne e Barbera! Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui, 9-8 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati a Uno Nessuno 100 Milan per una puntata molto ricca che oggi abbiamo, con tanti ospiti importanti. Avremo tra poco Gianrico Carofiglio, avremo Carlin Petrini che ha scritto un libro col Papa, parleremo di tante tematiche con voi se ci chiamate all'800240024 o se ci scrivete al 349-238-6666. Siamo lì con l'Alpino in regia, con Leonardo Manera che verrà, non verrà, non lo so. Devo appurarlo, lo appuro in diretta, adesso gli scrivo. Leonardo oggi Vestaglia o Metropolitana? Questo è un po' il discrimine. Vestaglia o Metropolitana? Poi c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e siamo pronti. Eccolo qua, vai. I will not be easy. Vestaglia. It will not be easy. O Metropolitana. Ecco qua, scritto. Teniamo risposta da Leonardo Manera. E oggi ho avuto, portando a scuola mio figlio. Sì, mio figlio inizia la scuola oggi. Ha iniziato la scuola oggi. Speriamo bene, incrocio le dita. Ho avuto il primo saggio di quello che succederà, l'inferno. Infatti oggi leggo un titolo su, credo, Quotidiano Nazionale, Milano, altro che i pendolari, gli autobus, no grazie, me ne sono accorto. Traffico quadruplicato, da lunedì sarà l'inferno, diciamo il cubo del quadruplo, quindi fate i calcoli voi. E anch'io sì, prendo la metro. Adesso non iniziate anche tu, prendi la macchina. Se io non prendo la macchina non vado in onda a quest'ora, quindi chiariamo questa cosa. Se io prendessi i mezzi non ce la farei essere qui per la messa in onda, quindi o scrivete al direttore della radio e non mi fate più mandare in onda, oppure questo. Comunque sarà un inferno per quel che riguarda il traffico. Speriamo che la scuola parta e che parta senza grandi patemi. Incrociamo tutti le dita. Conte dice che parte. L'anno scolastico ricomincerà e ricomincerà regolarmente a partire dal 14 settembre, anche se alcune regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno scelto di posticipare questa riapertura. Partirà, i presidi dicono. Ci sono già presidi, per esempio il Virgilio a Milano, un liceo molto molto importante e anche con tantissimi studenti. Il preside ha già annunciato, farà un giorno di didattica online e un giorno di presenza per garantire a tutti. E ognuno ha degli schemi propri. Ma io voglio gettarmi subito sull'altra vicenda, la vicenda di cronaca che da giorni stiamo seguendo, la vicenda di Colleferro, davvero con i dettagli inquietanti che emergono un giorno sui giornali. Oggi si racconta dalle vive testimonianze di chi era lì, uno spaccato che leggo solo da questo titolo del Corriere è incredibile. Saltavano su Willy inerme a terra e Gabriele continuava a picchiarlo. Gabriele è uno dei due fratelli in carcere. Io saluto lo scrittore, ex magistrato, Gianrico Carofiglio. Buongiorno, grazie di essere qui e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Io potrei chiederle da ex magistrato, da politico se vuole, da karateka, perché non è un mistero, è una pratica da diversi anni questa arte. È a Sesto Dan e quindi insomma è un titolo straordinario raggiunto nella carriera. Però io ho capito una cosa, caro figlio, che leggendo i verbali, vedendo le testimonianze, questa storia delle arti marziali proprio non c'entra più niente. Mi sembra un brutale pestaggio finito malissimo, no? Ripeto, la vicenda, come ho detto anche in altri casi, la vicenda specifica, quella che riguarda indagati e tutto quanto il resto, che appare già abbastanza evidente, ma per la, giudicare la quale occorrerebbe guardare gli atti, diciamo, non ci entro specificamente, ma tutto questo ci consente, anzi ci impone di fare alcune riflessioni. La prima è di tipo definitorio. Nel mondo delle discipline di combattimento ci sono cose diverse. Chiamare tutto arte marziale è semplicemente un errore. Arte marziale è un tipo di disciplina in cui attraverso lo studio di tecniche di combattimento si persegue una sorta di ricerca anche interiore, che non è tanto dissimile da quella dello yoga, per esempio, e che implica un confronto con le proprie inquietudini, con le proprie paure, per cercare di imparare a governarle. Non c'entra nulla con questo tipo di sport da combattimento, questa è la definizione corretta, sport da combattimento che hanno regole più o meno stringenti, più o meno civili. L'MMA, che sarebbe appunto la disciplina che a quanto pare questi signori praticavano, è uno sport di combattimento estremo in cui è consentito quasi tutto, sulla quale io ho molte riserve, che in cui, diciamo così, la quasi totale libertà data ai contendenti, insomma, è possibile colpire l'avversario a terra, anzi la parte che sembra attiri di più il pubblico sia questa specie di pestaggio a terra, è sicuramente molto fuori dalla tradizione anche di sport da combattimento brutali, certamente come il pugilato o come il full contact. Chiariamo quindi che c'è prima di tutto questa differenza, dopodiché è ovvio che la maggior parte dei praticanti anche di discipline così, diciamo così, vigorose, mettiamola in questi termini, sono sportivi, semplicemente sportivi, e sono probabilmente i più indignati di tutti per quello che è successo. Forse un minimo di disciplina su queste pratiche, anche soltanto di controllo sulle palestre, magari di attribuzione a un patentino per poter aprire una palestra di questa roba qua, non guasterebbe. Senta, le chiedo questo, lo so, gli atti ovviamente lei non li conosce, però da ex magistrato può aiutarci a dare una lettura agli ascoltatori del fatto che ci sono in questo momento tre indagati in carcere e uno invece ai domiciliari. Come dobbiamo interpretare il fatto che uno dei quattro sia stato posto ai domiciliari? È molto difficile fare delle congetture senza conoscere le carte, può significare comunque due tipi di cose diverse, alternative o insieme. Una può essere semplicemente che siano emerse responsabilità meno gravi nel concorso per questa condotta, l'altra è che magari nella identità, nello stesso tipo di responsabilità, abbia però mostrato un atteggiamento rispetto al procedimento diverso, cioè per intenderci di tipo collaborativo. Ha collaborato, questa è una, potrebbe avere essere questo, potrebbero essere tutte e due le cose insieme, diciamo, nel senso che potrebbe esserci stato un atteggiamento di collaborazione e un minore coinvolgimento nel fatto, però queste sono pure cose. Sono supposizioni. Però cito adesso una frase che è una sua frase, caro figlio. Il conflitto, o meglio, una frase che lei riporta è una frase di Eraclito: il conflitto è il vero sovrano della realtà, ciò che intimamente governa il mondo. Lei l'ha voluto mettere nero su bianco per questo saggio che ha scritto e che è uscito da qualche giorno per Feltrinelli, che si intitola così, quasi un titolo, mi permetta, provocatorio di questi tempi, dei tempi dell'esibizione, i tempi della sguaiatezza. Lei ha scritto il saggio della gentilezza e del coraggio. Intanto ci spieghi perché un saggio sulla gentilezza e il coraggio, e però lei dice Eraclito lo diceva da millenni, quindi che il conflitto regola il mondo. E allora? No, lo spiego subito. Intanto occorre chiarire a quale gentilezza faccio riferimento nel titolo. Non è la gentilezza che si identifica con le buone maniere, il garbo, la cortesia, che naturalmente sono cose apprezzabili, ma la gentilezza di cui si parla nel titolo è un modo di entrare in contatto con gli altri e di affrontare l'inevitabile conflitto, che è una parte della realtà, che non è per nulla una questione in sé positiva o negativa, è il modo in cui le cose del mondo procedono in una maniera dialettica, direbbero filosofi più sofisticati. Allora la mia idea è che la gentilezza sia un modo per entrare in contrasto con gli altri, evitando che il contrasto, il conflitto inevitabile, sia una esperienza distruttiva. Io lo spiego proprio facendo riferimento a metafore riprese dalle arti marziali, anche metafore riprese dalle arti marziali. Il concetto di fondo dell'arte marziale è non opporre forza alla forza dell'avversario. Se uno ti spinge, tu cedi, gli fai perdere l'equilibrio, in questo modo mostri, diciamo, l'ingiustizia del suo comportamento, e questo atto ha anche una funzione pedagogica, gli spiega o le spiega che così non va bene, che forse c'è un altro modo. E tutto questo si può fare con un uso accorto, civile, strategico e ammaestrato, naturalmente addestrato, del linguaggio, tutto quello che non vediamo quasi mai, per esempio, nei dibattiti televisivi. La mia idea è che, scrivendo questo libro, che per me è un atto politico, naturalmente non di appartenenza politica, ma di partecipazione civile, la mia idea è che questo libro possa contenere, debba contenere un breviario di istruzioni per l'esercizio del potere, per chi il potere ce l'ha, politici, ma anche magistrati, burocrati, e soprattutto però un libro di istruzioni per chi il potere lo deve controllare, cioè i cittadini, cioè noi tutti quanti. Sì, diciamo che quindi non è appunto la gentilezza del bon ton, ma come dice lei, la gentilezza per la capacità di riconoscere l'altro, l'empatia, possiamo dire così, l'empatia. L'empatia forse diciamo coglie una parte della questione, è un tema più vasto, è la adattabilità al mondo che ci circonda. La capacità, adattabilità significa non accettare l'esistente, esattamente il contrario. Significa essere fluidi, significa saper modulare il proprio comportamento, la propria reazione con riferimento alle circostanze. Per dirla tutta, la gentilezza di cui parlo io è una virtù combattiva, è una virtù marziale. Certo, una virtù marziale. E secondo lei serve in questi tempi in cui, come vede, purtroppo l'aggressività, in alcuni casi esplosiva, è un po' la cifra che viene un po' sdoganata come la cifra per affermarsi, per essere un po' più, no? Un po' più vincenti rispetto, purtroppo questo è il messaggio che negli anni è un po' passato. Questo è un messaggio che è passato ed è uno dei motivi per cui io ho scritto il libro. Il continuo confronto con questo tipo di condotte, con questo tipo di comportamenti, con questa aberrante gerarchia di valori che ne deriva, mi ha indotto a riflettere, a pescare da tutta la mia esperienza, ed inclusa quella delle arti marziali, alla ricerca di un'alternativa. Certo che è vincente, perché la questione è che l'avversario, sia in uno scontro fisico, sia in uno scontro dialettico, che è quello di cui parlo io, tutto si aspetta fuorché la reazione paradossale di chi cede di fronte all'attacco e squilibra l'avversario. Io cerco di metterlo in atto, lo faccio nei dibattiti televisivi, dove vado per una ragione, come posso dire, politica, ancora una volta il concetto di politica per me significa impegno civile, e anche per una ragione, un tentativo di manifestazione didattica, cioè io cerco di mostrare, guardate, è possibile, esiste un modo diverso dall'urlo, dalla testata sul naso, metaforica naturalmente, c'è un modo diverso dallo scontrarsi come due mufloni, sa come combattono i mufloni? Sì, certo, a testa. C'è un modo diverso che assomiglia più che a una rissa, a un tentativo di danzare, di cercare un movimento comune. Questo naturalmente, non sono stupido, non è possibile sempre, ma è possibile sempre disinnescare il conflitto distruttivo, questo sì. Va bene, io la ringrazio, ripeto, Gianrico Carofiglio. Grazie. Se volete l'ultimo saggio, che è uscito da poco, per Feltrinelli, della gentilezza e del coraggio, e poi Gianrico Carofiglio, ripeto, da ex magistrato e da esperto, davvero esperto è a dir poco, nel senso che decenni di pratica, e Sesto Dan vuol dire il top del top. Alle 9:21 minuti, è un po' oggi anche la puntata dei libri, perché voglio introdurre un altro ospite, anche lui ha scritto un libro, è come dire, chi di voi può annoverare tra i propri nel proprio curriculum la possibilità e l'aver scritto un libro con questo signore, il Papa, di cui tra l'altro mi ha colpito di recente, credo, non so se era l'Angelus di domenica o comunque qualche giorno fa, una frase che si rivolge al chiacchiericcio. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Il chiacchiericcio, che è una peste più brutta del Covid. Il Papa l'ha conosciuto da vicino, una serie di colloqui che sono diventati appunto un libro. Carlin Petrini, buongiorno, fondatore di Slow Food, di Terra Madre, buongiorno e grazie di essere qui, Petrini. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Già tutti dicono ovviamente il Papa è l'agnostico, poteva essere anche questo il titolo del libro, il Papa è l'agnostico, o l'agnostico non è il Papa, giusto per intendersi. È andata così. Cioè, è andata come? Ma come nasce? Perché il Papa con un agnostico, e non ne fa mistero come Carlin Petrini, deve scrivere un libro di riflessioni sul futuro di cui adesso parleremo? Ma è un rapporto amicale che esiste da diversi anni, perché pochi mesi dopo l'elezione del pontificato, per l'esattezza nel settembre del 2013, io mi trovavo per lavoro all'estero e un sabato pomeriggio alle 7 vedo una telefonata sul telefono portatile, sì, e sopra c'era scritto sconosciuto. Allora pensavo che fosse il giornale che mi chiedeva un articolo. Sì. Io dico pronto, e dall'altra parte sono Papa Francesco. Così. E dico, così. Io sono Carlo Petrini. ed è iniziato un dialogo che è durato più di mezz'ora. E abbiamo parlato di terra, abbiamo parlato di contadini, di economia della sussistenza, che è la vera economia dell'agricoltura per secoli e secoli, che deve essere anch'essa rispettata. E poi siamo andati a finire sul discorso delle nostre nonne, tutte e due di origine contadina, piemontese, insomma, una cosa. Alla fine io ho detto: guardi, se lei fosse qui la abbraccerei, e lui mi ha detto altrettanto. E di lì fino ad oggi si è sviluppata questa amicizia con diversi incontri e diverse tappe. Ne cito due. Una è la richiesta di produrre la guida alla lettura dell'enciclica Laudato Si. Sì. L'altra è la fondazione di comunità Laudato Si, perché questo documento è così straordinario e non è solo rivolto ai credenti, è rivolto a tutti. E per ultimo, alla fine proprio di questo dialogo, di secondo dialogo che ha riportato nel libro, il Papa mi ha invitato al sinodo panamazzonico. Ah beh, insomma. Ma tutto questo per il momento è concretizzato in questo libro. Il titolo, lo dico, è Terra Futura, edito da Slow Food e Giunti. Da oggi esce, tra l'altro, proprio. È in libreria. E sono questi dialoghi con Papa Francesco sui temi del futuro: l'economia, l'educazione, le migrazioni, la biodiversità. Cosa scopriremo? Ecco, cosa scopriranno i lettori del Papa che magari non sanno finora? Qualche lato curioso e nascosto, Petrini? Una dimensione umana e anche la descrizione di un mondo che è quello dell'Argentina degli anni 50 e 60, nella vita quotidiana di una famiglia di migranti piemontesi, e quindi della quotidianità di questa famiglia, delle sue pratiche, della passione che lui ha avuto da bambino sia per il cinema del neorealismo italiano che per l'opera, e viene fuori uno spaccato umano bellissimo. E poi anche molte riflessioni. Quella che mi ha stupito di più rispetto agli attacchi che lui deve subire molte volte, dico: ma lei come li vive? E lui mi ha detto: io ho tre cose fantastiche. La prima è che prego, oddio, un Papa che prega. Vabbè, non è una notizia. Non è una notizia. La seconda è che dormo come un legno, vado a dormire alle 9:30, mi sveglio alle 4:30 e non ho, addirittura non ho sentito il terremoto, proprio di botto, dorme. E la terza che invece per me è la più bella, tutte le mattine recito la preghiera di Tommaso Moro. E dico, qual è la preghiera di Tommaso Moro? E lui mi fa, Signore, aiutami a non prendermi troppo sul serio. Ah, stupendo. Detto da un papa. Non è, questa è più una notizia. Questa è più una notizia rispetto alla preghiera. Diciamo che questa terza preghiera dovremmo farla tutte le mattine. E invece la cosa che più l'ha colpita dell'analisi del futuro, perché poi si parla appunto terra futura e quindi del mondo che verrà, che già è stato stravolto di colpo. Tutti adesso, dopo che c'è stato il Covid, dicono che futuro sarà, che futuro ci dovremo reinventare. Il Papa come la vede? E anche lei, Petrini, come lo vede? Ma non c'è dubbio che prendono sostanza nuovi paradigmi, in particolare sul fronte dei nostri comportamenti individuali e più in generale di un cambio di economia, di un'economia meno attenta in maniera esclusiva al profitto, invece più aperta ai beni comuni, ai beni relazionali, un passaggio tra una società basata sulla competitività è una società della cooperazione, della condivisione. Sono atteggiamenti individuali molto importanti, ma che fanno la differenza. Mm-hmm. E queste riflessioni ci sono già in questo straordinario documento che era Laudato Si, ma oggi si impongono in maniera forte, perché chiunque pensi di uscire dalle tre crisi che ci coinvolgono, che sono la crisi economica, quella climatica e quella pandemica, chiunque pensa di uscire da questo stato di cose dando, come dire, una mano di bianco alla casa, mentre la casa va proprio ristrutturata, e chi pensa di risolverla tornando come prima, non riuscirà a uscire da un groviglio come quello. Vuol dire non avere in qualche modo imparato nulla, lei dice. Ovviamente avete discusso tanto anche di cibo, questo, e lo leggerete in Terra Futura, magari che cosa pensa del cibo Carlo Petrini lo sappiamo, cosa pensa il Papa, sicuramente è una buona forchetta, abbiamo capito, non si tira indietro. La cosa che mi è piaciuta è vuol dire, più che una buona forchetta, come dire, dei legami forti con la propria cucina, con la cucina di origine. Quindi in generale la cosa bella è questa riflessione sul piacere, il piacere del cibo, ma anche il piacere sessuale. Sì. E che io nel mio intervento, su questo fronte la Chiesa non è sempre stata così aperta, e lui fa un ragionamento bellissimo, dicendo, sdoganando il concetto di piacere come un elemento che una grazia che Dio ha dato, ecco. Certo, sì, non la condanna del piacere sessuale, la Chiesa ha fatto per tanto tempo, ma il Papa, se ho capito bene, dice si condanna il piacere, quello rozzo, volgare, ma il piacere e su questo vero. Lo Fude è sempre stato chiaro, non la crapula e la quantità, ma la qualità e anche un po' di morigeratezza che garantiscono maggior piacere che mangiare come porcelli, ecco. Beh, insomma, cari lettori, da oggi, se volete, in libreria c'è Terra Futura, Carlo Petrini, sono dialoghi tra Carlo Petrini, l'agnostico, e il Papa. Papa Francesco, ecco, su questo non ha provato a convertirla, perché insomma dovrebbe essere la prima missione di ogni buon cristiano, cercare di convertire, no, da che mondo è mondo. È vero, ci sono stati secoli di brutalità, ma si può anche fare tra un tagliarine tra i tagliarine, insomma, e la Sado, magari buttarla lì. C'è un passaggio interessante anche questo. Cristiani, dice Papa Francesco, non devono fare proselitismo, debbono comportarsi bene, poi gli altri di conseguenza. Nello stesso tempo ha riaffermato l'esistenza di un umanesimo agnostico molto molto importante, e io dal mio punto di vista personale ritengo che questa citazione della diversità è un pregio, un passo avanti per tutti, sì, ecco. Sì. E si apprende anche che pare abbia imparato da giovane in Argentina, da un parente, le parolacce in genovese. Vabbè, ma non credo che ne sentiremo mai all'Angelus una esibizione di questo. Non credo. Però ci sta, ecco, questo voto di migranti. Che avevano anche un loro lessico, no? Non è che sia. Sì, è certo, dovevano imparare in qualche modo la lingua, si arrangiavano. Carlo Petrini, grazie di essere stato qui, in bocca al lupo per questo libro e per i progetti futuri. Voi, i progetti futuri. Terra Futura, Carlo Petrini, e Giunti e Slow Food, lo trovate in libreria. Va bene, come vedete, oggi abbiamo parlato di attualità, di temi molto attuali, anche citando un paio di libri con due ospiti prestigiosi. Vediamo un attimo la chat, perché allora Vestaglia o Metropolitana, risposta a casa, risposta polemica già subito, non è che ha risposto Vestaglia Leonardo Manera, ha risposto casa, vabbè. 1, nessuno, 100 Milan. Alessà, buongiorno, scusami, ma per quanto riguarda la scuola, certo, c'hanno una bella faccia tosta questi, ma come si fa? Ciao Alessà. Trovo molto interessante lo spunto di Caro Figlio, che lo ha portato a scrivere quel libro, ma lo trovo inapplicabile a quella che è la nostra realtà politica, sempre più povera di valori e molto più incline alla veracità dello scontro politico e lo scontro verbale. Carissimo Caro Figlio, lei ha ragione. Peccato che il suo libro lo leggeranno persone che sono già gentili, e quelli che non sono gentili continueranno a menare, e quelli gentili finiranno all'obitorio. Sì, io invece sono contento di aver iniziato questa trasmissione con due colloqui, con due persone le quali si può prendere spunto, ascoltare, riflettere. Caro Leonardo Manera, eccoci qua, buongiorno. Amico, ci sono anche oggi, tu pensavi che io fossi presente, e invece sono presente anche oggi, ma vigio il mio dovere. Messo in dubbio, mai. Sono stato tentato per un attimo, ecco, di prendere la metropolitana e venire. Ma poi ho preferito desistere, ho detto chi me lo fa fare in fondo? Beh, tipo un contratto. Perché anche magari prendere la metropolitana è in qualche modo un atto aggressivo, perché devi obliterare il biglietto, lo mettere nell'obliteratrice, quindi il biglietto in qualche modo subisce questo atto, che poi devi cercare di metterti nel posto giusto, magari togliendo spazio, adesso i posti sono sempre meno, a un'altra persona seduta. È venuto il legno Mariotti a trovarti stamattina. E quindi per avere anch'io un atteggiamento più gentile nei confronti del mondo, e per non essere invadente e invasivo nei confronti del mondo, ho deciso di rimanere a casa. Ah, va bene. Quindi questa mia decisione, ottimo, andrebbe lodata, credo. Per esempio, della gentilezza e del coraggio, abbiamo parlato con Caro Figlio, proprio sembra un libro scritto da Elenio Mariotti, cioè potrebbe essere scritto da gentilezza, coraggio, educazione manca, però insomma, Adesso mi vuoi far schierare direttamente da una parte in modo così aggressivo? No, cioè, abbiamo appena parlato di una cosa, adesso in modo aggressivo vuoi farmi dire che io sto dalla parte di caro figlio, cioè, te capisci che già questa è una partenza che non va mica bene. No, ma non è che io voglio. Ma io guarda, io sono come, diciamo che sono come un'insalata, capisci? Te capisci, cioè? Conosci l'insalata? Sì, ma l'insalata... L'insalata, prima di tutto, può essere di tanti tipi. C'è l'insalata riccia, c'è la scarola, cioè può essere di tanti tipi l'insalata, ma soprattutto la rucola, la... accoglie il condimento che viene proposto. Qualche volta c'è l'olio con l'aceto di vino, qualche volta c'è l'olio con l'aceto balsamico, qualche volta c'è l'olio con limone. Quindi è accogliente, diciamo che... accogliente, educata. Certo, noi siamo... noi ci... diciamo che noi siamo l'olio che accoglie l'altro tipo di condimento in modo gentile, perché se non è, non è che se arriva il limone invece dell'aceto balsamico noi ci mettiamo a polemizzare. No, cioè, accogliamo... noi insalata o noi sardine? Noi... Lei mi vuol, cioè... fare, cioè, mi vuol far scendere su un livello veramente che non mi si addice. No, vabbè, volevo sapere se parlava in quanto insalata o in quanto sardina. Adesso, ma ognuno di noi è insalata nel profondo. Chi di noi non si sente un po' insalata? Cioè, è l'immagine di tutti noi. Vabbè, signori, comunque io poi dopo voglio placare questa cosa, nel senso che ho letto anche adesso un tweet di Anna Paola Concia a dire basta questo isterismo sulla scuola, effettivamente, cioè non se ne... Ma perché secondo te, Leonardo, sulla scuola si è scatenato adesso tutto questo putiferio e le regole, la questione? Ma effettivamente su questo devo dire, per la seconda volta do ragione al ministro Azzolina, quando ieri ha detto in fondo la scuola sarà il luogo in cui i nostri figli saranno più al sicuro per tutto l'arco della giornata rispetto agli altri luoghi che frequentano. Ed è vero, perché se applichi quelle regole lì, Dove le applichi fuori dalla scuola quelle regole lì? Da nessuna parte. Cioè, molti ragazzini usciranno da scuola e andranno, che ne so, a mangiarsi un hamburger insieme. Credete che rispetteranno la regola di non passarsi l'hamburger, non passarsi il telefonino, no? Ma infatti io credo che molti genitori siano preoccupati non perché i figli a scuola non siano sicuri, ma perché temono di ritrovarseli troppo spesso a casa. Questo credo sia il problema di tanti genitori. Ma io per esempio, io lo so che mio figlio quando va a scuola sarà più al sicuro che essere a giocare all'oratorio oppure a fare altro in giro, però poi allora il problema sarà se E allora perché tutta questa preoccupazione sulla scuola? Cioè non la preoccupazione è sul fatto che non ci sia un anno regolare di scuola per tanti figli, cioè che sia un anno in qualche modo perso, visto che probabilmente tante volte dovranno stare a casa. Va bene, ti ringrazio. Io credo che sia così. Guardate, Leo risolve facile. Ah, infatti, insomma, caro figlio Petrini, Manera, cioè abbiamo veramente tre grandi pensatori. Guarda che io l'altro giorno ho cercato di convincere mio figlio a diventare credente, con una spiegazione che se l'avesse data mio padre a me, io sarei diventato molto credente. Attenzione, vogliamo dire l'ABC, dai, sono come... Perché lui, come caro fanno Beniamino, tanti bambini, allora, lui come fanno tanti bambini e tante persone, anche la sua obiezione era: ma se Dio esiste, perché non risolvi i problemi del mondo? Perché c'è Leo risolve facile. C'è già Leo risolve facile. Che bisogno c'è di Dio? Scusa, Beniamino, anche tu per le cose terrene c'è Leo. Vabbè, no, non gli hai detto. Allora gli ho dato una risposta che secondo me è bellissima, per la quale Attenzione. Anche mi autolodo. Gli ho detto: Dio non è quella cosa che tu vedi in modo un po' semplicistico. Quella cosa, Dio, gli ha detto, quella cosa. Quell'entità, senso, non voglio dire, non è una persona fisica che si mette lì e risolve i problemi e arriva come un risolutore. Ho detto, è la parte più intima di te, è quella che ti permette di metterti in contatto col tuo mondo interiore e di metterti in contatto col mondo interiore degli altri, è la parte più profonda di te. Se tu riesci a trovare quella tua parte profonda, in qualche modo hai trovato Dio. È una bellissima spiegazione. Lui ha detto: non ci credo. Ed è rimasto della sua idea. Però son contento però della ci hai provato. Sì, sì. Bravo. Bello, bellissimo. Bravo Leonardo. Autolodati. Bravo Leonardo. Bravo. Viva Leonardo. Vabbè, c'è Mimma che ci chiama da Bari. Mimma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mimma. Eccoci. Niente, io volevo parlare un pochino a proposito di quanto dice il mio concittadino, caro figlio, di cui ho grandissima stima, di cui posseggo tutti i libri, compreso l'ultimo, che non mi è piaciuto in questa sua veste di censore dello sport MMA. Spiego subito. Mio figlio è un insegnante di questo sport e io vi posso assicurare che è uno sport rispettoso dell'avversario, come non lo è il calcio. Però non è stato molto censore, anzi ha detto, se non sbaglio, caro figlio, che i veri sportivi, sì, di questo sport si vergogneranno e si vergognano di come sarebbe stato messo, sì, in pratica in questo tipo, esatto, di aggressione. Quindi... Esatto. Però l'impressione che si ricava da questi discorsi è che in sostanza le palestre che praticano l'MMA siano delle palestre per assassini, e non è assolutamente questo, così. Ma questo no, questo no. Certo, è uno sport di contatto violento, molto violento. Molto violento, ma ha delle regole ferree. Non c'è dubbio. A parte il fatto che non sarebbe uno sport, nel calcio è uno sport, però anche lì ci sono regole negli stinchi e nelle cose, quello è, però, è una anche violenza lì, Mimma, che esula dallo sport. Anche nel calcio ci sono le regole, chi non le rispetta viene espulso, ci sono le sanzioni anche lì. Io questo voglio dire, non è lo sport da incriminare, purtroppo è la persona che utilizza le tecniche che ha imparato per puro in maniera impropria. Ma guardi, su questo Mimma lei ha ragione, cioè se lei legge oggi i giornali e i racconti che ci sono, le testimonianze di questa aggressione, non c'è niente di sportivo o di legato a qualsiasi tipo di pratica marziale. Cioè c'è, almeno a raccontare dalle testimonianze, una brutale aggressione iniziata per motivi stupidi, credo un apprezzamento a una ragazza, vicenda della quale tra l'altro questo povero Willy non c'entra nulla, cioè è arrivato lì per sedare la situazione e sono arrivate delle persone, hanno iniziato a picchiare così e secondo i resoconti perdeva sangue dalla bocca, gli saltavano addosso anche da inerme per terra, cioè non c'è niente di sportivo legato allo sport, è proprio una brutale pestaggio mortale. Quindi su questo lei, Mimma, ha ragione, cioè si è criminalizzato questo sport, per il quale io devo dire io non ho attrazione, io non andrei mai a fare uno sport del genere. So, Leonardo, tu hai mai pensato di avere un'attrazione per uno sport che è comunque uno sport di contatto fisico e di tale aggressività? No, penso che mi sarei fatto male prima di cominciare. Sì, ma io non ho neanche voglia di provarci, cioè, mi sembra sarei fatto male anche al pensiero, cioè, quindi. Vabbè, comunque andiamo al traffico. Poi oggi c'è anche un particolare sul Corriere della Sera, magari lo diciamo tra un attimo, tanto ormai è stato sdoganato sul Corriere della Sera su questa vicenda, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, io trovo assurdo, ma veramente assurdo, il comportamento di molti genitori. Si fanno problemi per stare su un banco distanziato o no, e poi però lo stesso pomeriggio usciti da scuola, o come stanno facendo in questi giorni che la scuola non c'è, stanno almeno 3, 4, 5 ore al parchetto, li ho davanti casa mia, uno addosso all'altro a giocare a calcio, sì, è così, a inseguirsi, è così, a nascondino. Nel sabbione, con i giochi. È così. Ma che ridicoli sono. È tutto ridicolo, ma secondo me sono ridicole le regole a scuola. Non è ridicolo il fatto che giochino. Sono regole fatte solo per sgravarsi dalla responsabilità penale da un'eventuale positività. Oh, Parliamoci chiaro, non c'è altro motivo. Senti questa sul Corriere della Sera. Fulvio Fiano e Fiorenza Sarzanini parlano della vicenda Colleferro. Sai che uno dei due fratelli è anche, ha una compagna e aspettano un bambino. È incinta di 6 mesi questa compagna, non so se hai letto, Leonardo, sto parlando con lei, Manera. Sì, sto ascoltando le tue delucidazioni. Una volta che uno ascolta viene subito attaccato anche per questo. Oggi una testimonianza, pensa a leggere sul Corriere, pensa, mettiti nei panni di questa donna che oggi legge sui Corrieri questa testimonianza. I fratelli Bianchi, svela un testimone, stavano facendo sesso nel cimitero con alcune ragazze di cui non conoscevano neanche il nome, quando sono stati chiamati. E da lì poi succede quello che appurerà la magistratura. Pensa a una frase del genere alla 7ª riga del resoconto del Corriere della Sera. Vabbè, spiattellata così. Vabbè. No, nel senso, questa è una cosa in qualche modo, cioè il fatto che facessero sesso è una cosa comunque che riguarda loro. Sì, riguarda loro, solo che è messo sul Corriere della Sera, adesso riguarda un po' tutti, riguarda la compagna di uno di loro che è incinta, sì, certo, di 6 mesi, riguarda l'Italia ormai e riguarda soprattutto... Infatti in questo senso quella... dovevi essere più chiaro, perché non si era capito dove volevi andare a parare. No, volevo andare a parare nel fatto che è stata spiattellata questa cosa che chiaramente, come dire, incide sulla vita privata senso. No, non si era capito se era per quale motivo lo diceva. Adesso è più chiaro. Non c'entra con la dinamica, c'entra col fatto di avere rivelato un particolare così intimo che adesso è alla mercé di tutti quanti, ecco. e soprattutto delle persone legate a loro. Certo. Va bene. Caro Leonardo, a te. Eccomi. A te. Allora, uno dei temi dei quali ormai da anni e anni si parla di più in Italia è quello dei migranti. Il verbo migrare in origine come etimo significa scambiare, e in effetti quando qualcuno viene da noi o quando noi andiamo da qualcuno c'è sempre uno scambio di opinioni, di doni, di esperienze, quindi in teoria sarebbe un verbo bello. E anche noi italiani, in fondo, in gran parte, non saremmo contrari all'immigrazione, però noi italiani, che siamo un po' scottati, un po' in difficoltà economica, vorremmo che venissero qui solo gli extracomunitari utili. Ma per molti italiani gli extracomunitari utili sono quelli che raccolgono pomodori a 1 euro l'ora, le badanti preferibilmente da pagare in nero, e per qualcuno anche le prostitute e al limite qualche spacciatore, per chi quel vizio ce l'ha. Quindi in definitiva alcuni italiani vorrebbero che venissero qui solo gli extracomunitari irregolari, mentre quelli regolari, quelli che hanno il permesso di soggiorno per stare in Italia, che lavorano normalmente, paradossalmente dovrebbero stare a casa loro. Anche perché in fondo siamo ancora un po' prevenuti su chi ha un colore della pelle diverso dal nostro. Noi, se dobbiamo andare da un medico di colore, ci andiamo. Però poi chiediamo consiglio anche a un medico bianco, perché in fondo non ci fidiamo. Noi ragioniamo un po' per luoghi comuni. Secondo questi luoghi comuni, il nero ciondola sempre, non lavora mai, il cinese non ciondola mai e lavora sempre, gli slavi delinquono, i sudamericani bevono e le filippine stirano. Per noi una Filippina che non stira non esiste. Noi pensiamo che se vai nelle Filippine, quando arrivi lì, ci sia un cartello con scritto benvenuti nelle Filippine, paese delle stiratrici. Sono appunto luoghi comuni. Se un giorno vedessimo un nero che stira al posto di una filippina, faremmo subito un video da postare su Facebook, e poi un cinese che chiede la moneta fuori dal bar, uno slavo che cuce, una filippina che spaccia droga in un pacchettino pulito e lavato, sarebbe meraviglioso, ma soprattutto sarebbe un po' fuori dai nostri luoghi comuni, perché poi, come ovvio, la stragrande maggioranza degli extracomunitari lavorano, sono persone oneste, e io non voglio fare il fenomeno, anch'io spesso ragiono per luoghi comuni, però cerco di accorgermene che sono luoghi comuni. Sugli extracomunitari il nostro atteggiamento è ondivago. Se in mare c'è un naufragio e un bambino muore, sull'onda dell'emozione pensiamo che sia giusto accoglierli. Se invece sbarcano e vediamo un ragazzo nero con l'iPhone, pensiamo che sia giusto chiudere i porti e respingerli, perché pensiamo che se hanno l'iPhone sono ricchi e probabilmente a casa loro hanno anche la villa con dentro i filippini che stirano. Possono venire in Italia quindi, ma solo se non hanno l'iPhone, e allora forse qualcuno vorrebbe selezionare l'ingresso in base alla marca del telefono. E allora, per farti un'idea, per farti un'opinione, per cercare di capire, torni a casa, magari accendi la TV. per capire come e in che modo accogliere gli extracomunitari. Se giri su Rai 3 magari è giusto accoglierli quasi sempre, se giri su Rete 4 quasi mai, se guardi Sky non lo so, perché invece di ascoltare di solito guardo le giornaliste. E intanto l'ansia aumenta, perché siamo in balia anche di un'informazione ansiogena, e allora viene voglia qualche volta di mollare tutto, di prendere un aereo e di andare magari a vivere in Germania, ma poi ti rendi conto che è meglio di no, perché là in Germania noi italiani siamo considerati pizza e mandolino, e allora anche noi diventeremmo vittima dei luoghi comuni. E allora meglio stare qui con l'ansia che sale, ma che scende un po', se poi cominciamo a demolire giorno per giorno tutti i nostri maledetti luoghi comuni. E Ale, Emilio da Sondrio, buongiorno Emilio. Emilio? È interessantissimo. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Volevo dire che mi dispiace, perché l'argomento che stavo dicendo era molto più importante di quello che, dico. No, ma perché? Non si sminuisca così. No, ma sono anche emozionato la prima volta che chiamo, però è dovuto alla signora che aveva chiamato se un attimo fa, che il figlio era un istruttore, non ho capito di cosa. Si parlava di arti marziali. Sì, sì, prego. Esatto, e che praticamente se un figlio insegna a, diciamo, non so quale, perché allora non posso essere preciso, però ha tirato anche lei in questo giochetto. Io non sono praticante, mio figlio sì, sono però nel giro da 15 anni. Mio figlio è un si allena da Takeshi Naito a Milano, sì, anche se sono a Sondrio, e qualsiasi insegnante di arti marziali giapponese tradizionale, judo, karate, aikido, solo a sentire la parola sport gli vengono i capelli rizzi. Ma perché? Io perché non sono un cultore, ma infatti, perché lo sport è, perché lo sport è competizione e voler vincere. No, assolutamente nelle arti marziali non esiste. Guardi, la regola principale che insegnano i ragazzi quando fa, se lei fa karate, non attaccare mai. Le arti marziali servono a difendersi. Ma certo, ma cosa c'entra questo con il fatto di voler vincere? Sono i campionati mondiali, le Olimpiadi di judo, karate, cioè nel senso, sono discipline. Guardi, può essere un'ipocrisia. Cioè, non è, lei identifica come sport come aggressività o voler prevalere sull'altro, ma ci ma sono. Perché lei non è andato mai in un campetto di calcio? Sì, infatti mio figlio fa basket anche per quel motivo. Non ha sentito qualche stupido genitore ammazzarlo, rompigli le gambe? Ma certo. Pratichi purtroppo qualche palestra, sì. Lì sicuramente queste cose non si sentono. Capisco il senso del suo intervento e la ringrazio Emilio da Sondrio. Oh, ma adesso ci saranno credo tutti i dettagli nei giornali radio, ma sai che hanno trovato positivo De Laurentiis, il presidente del Napoli? Ormai c'è anche questa cosa per cui la salute viene spiattellata in una maniera, Leonardo? De Laurentiis è positivo al coronavirus ed era alla riunione della Lega Calcio, credo ieri, per cui adesso che succederà? Quindi adesso tutta la squadra sta in quarantena per 15 giorni. No, io li metterei in quarantena. Sì, io darei anche Napoli-Milan 0-2 a tavolino, così. Sì, sono d'accordo. Facciamo che se c'è una qualsiasi persona di una squadra positiva, il Milan vince a tavolino. Contro quella squadra, andata e ritorno. È una buona regola, vabbè dai, nel giornale radio sentiremo i dettagli. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli ho detto, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. La didattica a distanza, quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con con una sfida senza precedenti. Sì, è stato bello rivederli, siamo contenti perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre. Nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Signori, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan che riparte con un Leonardo Manera in grande spolvero. Insomma, normale direi, normale, sono qui a casa mia, oggi non sono neanche andato a prendere il caffè, quindi sono un po', ancora mi devo svegliare bene. Quindi niente mezza brioche, non hai acceso il folletto, hai rivenduto. Non volevo rischiare di arrivare in ritardo. Com'è sta storia che hai rivenduto al mercato secondario già il ferro da stiro, non ti dava più soddisfazioni, mi hai detto ieri, non spruzzava più il vapore. Ho comprato un ottimo ferro da stiro, adesso domani farò sentire di nuovo il vapore momento qualificante della trasmissione. Va bene, comunque, ormai escono, ti ricordi la lezione delle ANSA, le notizie ANSA? Escono, allora, con due croci e bollino rosso. Due croci e bollino rosso. Questo vuol dire... Cosa vuol dire? Vuol dire due croci e bollino rosso, vuol dire notizia importante. Forse proprio una roba De Laurentiis positivo al Covid-19. Ormai non puoi ammalarti, non puoi essere malato, non puoi stare male... Non può, magari è asintomatico, non lo so, non puoi essere sofferente, che è l'unica malattia al mondo per la quale vieni, possiamo dire, sputtanato, cioè nel senso esibito. Esibito com'è al successo mondo. Perché anche De Laurentiis era in Sardegna con Berlusconi e Briatore, tutti insieme al bilionario. No, sembra c'entra? Che tutti quelli che l'hanno presa erano lì in Sardegna con Berlusconi e Briatore, bilionario. No, non era lì anche lui. Ma non lo so, ma chi se ne frega, appunto, chi se ne frega, ora traccerà le cose. Ma sai che hai sentito che anche Trump, ragazzi, che mondo strano, anche Trump ha confessato a Bob Woodward, uno dei grandi giornalisti. Ma pensavo a Bobo Vieri, hai detto Bobo. Woodward. Che con cosa Bernstein, ha confessato Bobo Vieri Shame like a bomba. A Bobo Vieri gli ha detto, è andato così. Vieri da Trump e ha detto shame like a bomba. Shame like a bomba. It's always tougher than the touch, you know, the touch you don't have to touch things, right? But the air. Allora, a Bob Woodward, detto anche Bobone Woodward, che con Carl Bernstein è colui che ha scoperto lo scandalo Watergate, insomma, ha fatto credere Richard Nixon. Da allora Woodward fa grandi scoop. Ha svelato, e questo è l'audio mandato dalla CNN, che Trump sapeva benissimo che il Covid era una malattia mortale. Lo sapevo già da gennaio, ma sapevo che era una deadly stuff, una roba mortale, ma non volevo spaventare la popolazione. Ovviamente tu sai che in America prendono molto sul serio l'idea di un presidente che mente o che rischia di mentire alla nazione, nell'ambito del suo... Più che mentire, si è astenuto da rendere note alcuni rapporti, diciamo. Dire so che non era mortale. Insomma, so che è mortale. Poi faceva le dichiarazioni, ma sì, col primo caldo sparirà tutto, via le mascherine, non vi preoccupate, cari americani. E poi il segreto... È la tendenza di tutti i governi, quella di attenuare, no, l'impatto per paura di terrorizzare le persone. Stupendo, va bene. Vabbè. Siamo sempre un po' considerati un po' come un gregge. Come un gregge? Sì. Un gregge, noi popolazione. Da siamo chi? Sempre considerati un po'. Da Bobo Vieri. Da chi ci governa? Sì, da Bobo Vieri anche. Vabbè, ragazzi, chi ci governa? Pensiamo sempre che non siamo in grado di gestire le emozioni. Magari anche però, così. Su questo, però, hai torto, Leonardo. Cioè, effettivamente la massa impaurita fa paura più che dei singoli presi singolarmente. Pensa di impaurire una massa di persone, si crea un panico generalizzato. Insomma, c'è un ruolo. Forse si crea maggiore responsabilità, non lo so. Va bene, poi adesso, dopo il traffico, tra due minuti, noi parleremo del caso del Festival della Bellezza che c'è a Verona, perché è nata una polemica portata avanti da alcuni intellettuali, da Michela Murgia, da Caterina Soffici, che sarà nostra ospite, a dire: guardate il cartellone, ci sono praticamente tutti uomini, praticamente tutti uomini, tranne una pianista che accompagnerà Baricco e Jasmine Trinca, insomma due donne in mezzo a tutti uomini. Sai cosa mi è venuto in mente? Che voglio farti una domanda, visto che tu sei nel mondo dello spettacolo. No, esatto. No, nel mondo dello spettacolo, la vicenda degli Oscar. Gli Oscar che cambieranno dal 2024. Per partecipare agli Oscar bisognerà dimostrare l'inclusione, per cui almeno un protagonista dovrà essere dei film appartenenti a minoranze etniche. In alternativa, il 30% del cast dovrà essere composto da donne, afroamericani o ispanici o disabili o appartenenti alla comunità LGBTQ. Ma io non lo so, che ne pensi tu, Leonardo? Ma è un po' come le quote rose, a me queste imposizioni forzate lasciano sempre un po' perplesso. A volte io pensavo ieri proprio in merito a questo ai festival di cabaret, dove quasi sempre tutti i partecipanti sono uomini, di donne ce n'è una ogni tanto, ma quella non è, in questo caso ovviamente il Festival della Bellezza è un discorso diverso, ma per esempio nei festival della comicità è difficile reperire donne comiche, sono veramente poche. E questo ci hai detto varie volte. No. Cioè, caso non è maschilismo o sessismo, è proprio una difficoltà oggettiva, quindi anche volendo diventerebbe complicato, insomma. Questo caso però è un po' peculiare, effettivamente ci hai spiegato che le donne comiche sono veramente rare come numero e quindi non è che si può pareggiare. Io non lo so, cari ascoltatori, diteci cosa ne pensate, chiamateci. Insomma, gli Oscar, io dico, qualsiasi iniziativa per aumentare l'inclusione forse fa anche bene, cioè è giusta per principio. Mi chiedo se questa sia la scelta giusta, cioè tu non vincerà a questo punto la pellicola o il film necessariamente migliore, vincerà la pellicola magari meno bella ma che ha rispettato il fatto che il protagonista è nero o il protagonista è donna o omosessuale o un disabile, perché si rispettano così le quote di inclusione. Io sono d'accordo con te e direi che possiamo chiudere qui la trasmissione per oggi. Bene, la sigla finale, ci dispiace per gli ospiti che avevamo chiamato. No, scherzo, dai, andiamo al traffico e tra poco parleremo di questa polemica sulle poche donne, poche, praticamente zero donne al Festival della Bellezza. Uno, nessuno, 100 Milan. Vabbè, 10-17 minuti, un ascoltatore ci scrive: scusate, per esempio Salvate il soldato Ryan non potrebbe partecipare agli Oscar? Beh, nel 2024 no, adesso io non lo so, ma il protagonista essendo Tom Hanks, poi ci sono tanti soldati, quindi non credo che ci siano quote di, sicuramente non di donne o disabile, eccetera. Dovrebbe partecipare mettendo come protagonista invece che Tom Hanks Will Smith, che ne so, che è nero e quindi è salvata secondo la rivoluzione che si apprestano a fare agli Oscar, l'inclusione. No? Caro Leonardo, questo è un po'... Ti ascolto. Mi ascolti, va bene. Allora, parliamo di questa vicenda del Festival della Bellezza a Verona che è stata lanciata da alcune intellettuali scrittrici, ne cito una, Michela Murgia su Repubblica, e una, Caterina Soffici, perché è qui con noi. Buongiorno Caterina Soffici, grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno. Buongiorno. E oggi devo dire che Michele Serra replica a Michela Murgia, perché Michele Serra è uno degli invitati di questo Festival della Bellezza e dice e spiega, adesso magari vedremo le sue motivazioni leggendo qualche pezzo di Repubblica, io ci sarò comunque. Voglio però salutare Alessandra Zecchini, buongiorno al Festival della Bellezza di Verona, grazie di essere qui nonostante le tante polemiche che si sono generate. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è, diciamo, la responsabile del coordinamento generale di questo festival. Sì. Allora, Caterina Soffici, intanto vuole, lei ne ha scritto sulla stampa, ma vuole un po' spiegare il tipo di critica che l'ha mossa a, a scrivere questo editoriale sulla stampa ieri contro questo festival? La, la cosa mi pare talmente lampante che anche le polemiche che ci sono state ieri e le cose che sto leggendo in questi giorni mi sembrano lunari, sulle, surreali. Cioè, tu organizzi un festival in cui parli di Eros e bellezza, organizzi 22 incontri e su 22 incontri c'è, ci sono due donne che partecipano. Una è un'attrice, Jasmine Trinca, che niente contro di lei, poveretta, però un'attrice. E la seconda è una pianista che viene associata, diciamo, in, a un evento insieme a Baricco. Anche lì io non ho niente da dire contro, pensate anche la risposta di Serra, io in parte la condivido. Se tu sei un invitato a un festival, benissimo, tu non sei, il problema è l'organizzazione, sì. Cioè, come ti fa a venire in mente di o non accorgerti, perché io non credo che comunque non ci sia qualcosa dietro, capisci? Perché sì. Tu organizzi un festival con 22 incontri, invece una donna sola. Infatti noi qua abbiamo, diciamo, la coordinatrice generale, quindi può rispondere a questo. No, però, ma in che senso? Posso fare una domanda? In che senso Jasmine Trinca è un'attrice, però è un'attrice? Sì, l'ha cosa, detto, cosa l'ha, detto in, l'ha detto, come dire, niente contro, no, però no, è un'attrice. No, no, no, però un'attrice no, nel senso, no, scusatemi, forse mi sono espressa male. Lei parla della sua esperienza personale, sì. Mentre gli altri sono invitati in quanto studiosi, ah, okay, a parlare di una cosa che è altro da loro. Cioè non è una studiosa, non è una... Sì, sì, no, ma è chiaro. Non è chiaro. Era niente, era non giusto, di, giusto precisare. Insomma, Alessandra Zecchini dice che Caterina Soffici si deve pensare che ci possa essere qualcosa dietro a questa scelta ben precisa. Allora, ci vuole spiegare come mai siete arrivati ad avere un cartellone praticamente tutto al maschile, quasi tutto al maschile? Allora, ecco, non si tratta ovviamente di una scelta ben precisa, assolutamente, e tra l'altro chi conosce e ha visto tutte le edizioni del festival sa che i temi sono sempre ampi, di arte, di cultura, di poesia, e gli invitati sono, noi abbiamo avuto tra l'altro sempre personaggi internazionali, e quest'anno il programma originario, prima di questo enorme problema che ha sconvolto la vita di tutti e di tutti anche i settori professionali e dell'attività, c'erano confermate quattro donne con un programma bellissimo, perché tra l'altro al festival agli ospiti viene, sì, richiesto di preparare un incontro ad hoc specifico, quindi noi, sì, non facciamo cose in tournée. Vabbè, diciamo 4 su 22, chi erano queste Charlotte donne? Charlotte Rampling, sì, Jane Birkin, Ute Lemper, che era anche già sì, venuta altri anni, e Patti Smith, felicissima di tornare, perché e che è successo poi il Covid, immagino, sì, perché ci sono grossi problemi con, certo, i voli, le cose internazionali, New York, Stati Uniti, eccetera, ecco. Per cui poi questo programma è stato anche fatto molto di corsa, perché l'opportunità di veramente riuscire a rimettere diciamo in scena il festival, e si è aperta qui a Verona l'opportunità di entrare in arena. Allora, l'arena è uno dei più grandi teatri al mondo, uno dei più grandi teatri, sì, all'aperto, sì, è una cosa unica e crediamo anche irripetibile quest'anno, di portare al suo interno delle riflessioni culturali. No, ma su questo non c'è dubbio, cioè nessuno esatto, mette in questione questa cosa. Abbiamo cominciato a sparare inviti a uomini, a donne che era già venuta, eccetera, e poi si è completato. E, insomma, Caterina Soffici, le garba, le piace come spiegazione? A dire, no, ce ne sarebbero state quattro. Spiegazione, cioè, allora, se uno organizza un festival, organizza un festival culturale, c'è un messaggio e anche una responsabilità, no? Allora, se dici noi abbiamo fatto inviti e tutti ci dicevano di no, a parte che voglio dire, anche nella versione originaria, se così fosse, quattro persone 4 su 22, comunque non mi sembra che proprio ci sarebbero 6, cioè se si aggiungevano quelle 4 sarebbero state 6. Ecco, vabbè, sì. Comunque è sempre una percentuale ridicola, no? Considerato che l'universo della popolazione mondiale è fatto di un numero maggiore di donne rispetto agli uomini, dice, vabbè, io non voglio stare a fare il bilancino che devono essere perfettamente a metà, questo è quel politicamente corretto che anche stucca un po', però dire vabbè ragazzi, poniamoci un problema, perché non invitiamo delle donne, cosa ci abbiamo? Sì, abbiamo un problema. Cioè il punto, lei dice, bisognava porlo a un certo punto, come dire, una condizio sine qua non. No, adesso cerchiamo proprio delle donne. Cerchiamo delle donne, sì, perché parlare di cioè il problema è sempre il solito. Sono degli istinti pavloviani, secondo me, che vengono, cioè, quando si fanno dei panel di persone, bisognerebbe rispettare la diversità, il mondo è vario, il mondo è bello perché è vario, è plurale, no? Invece sono sempre i soliti nomi, sempre le solite cose, che poi questo alimenta ovviamente un certo meccanismo, perché se tu inviti sempre le stesse persone sono quelle conosciute dal pubblico, quindi tu li inviti e più fanno pubblico. No, ma tra l'altro vorrei chiedere ad Alessandra Zecchini, che è donna, se da donna non si è posta questo problema, cioè vi siete accorti a un certo punto, per i motivi che ci ha spiegato, cioè ritardi, ultimo momento, a un certo punto avete visto anche voi il programma e avete detto accidenti. Ma certamente ci siamo accorti e comunque, cioè, ci è piaciuto molto, ma forse adesso non ricordo se l'ho detto prima, ovviamente abbiamo invitato donne e abbiamo avuto, esatto, tra l'altro per gli appuntamenti soprattutto in arena, che ripeto è un contesto molto particolare, li abbiamo invitate, sono stati scambi, e poi hanno però, detto di no. Sì, ma a quel punto Caterina Soffi ci dice: avreste proprio dovuto partire da un presupposto diverso e dire cerchiamo, cioè non andiamo avanti finché per questo evento non troviamo una donna che sul tema saprà dire qualcosa, cioè cambiare un po' il punto, l'approccio in qualche modo, non invitare un po' e vedere chi viene, ma dire invitiamo donne. Ripeto, poi tra l'altro anche vicino a una chiusura di contratto, invece una si è sfilata, poi si è visto che c'era un altro impegno, vabbè, insomma, sono cose che capitano, voglio dire, il tempo era poco, questo è quello che si è creato, e abbiamo adesso questi appuntamenti all'arena con le riflessioni, cioè, è la prima volta che l'arena è diventata agora, ecco, che questa ma sulla bellezza dell'evento, per carità, nessuno lo sa che Sgarbi ha detto mando mia sorella, per esempio. Sgarbi ha detto mando mia sorella, Elisabetta Sgarbi. Siamo contentissimi. Caterina Soffici, ecco, perché qualcuno dice a questo punto sarebbe il ruolo degli uomini invitati, cioè come ha fatto il ministro Provenzano, no? Che in un convegno qualche mese fa ha detto non mi presento perché ho visto che siamo tutti uomini, dovrebbero essere gli invitati, Caterina Soffici, adesso dire... No, secondo me, lì è una cosa diversa, le persone invitate sono artisti, quindi sono persone che mangiano andando a questi, vengono pagati per andare a questi incontri, per cui tu non puoi chiedere a una persona di rinunciare a un evento che gli dà da mangiare in un periodo come questo, tra l'altro, no? Mi sembrerebbe veramente troppo. Non è loro la colpa, il ministro è una cosa diversa, il ministro ha una funzione pubblica, quindi se il ministro si rende conto che è un panel non lo soddisfa, può benissimo, il ministro rappresenta è pagato da noi, dallo Stato, quindi lui non ha un problema di portare a casa la pagnotta, per essere chiari. Sì. Una persona che viene invitata a fare uno spettacolo potrebbe altamente fregarsene di perché lui dice io ho bisogno di guadagnare, è un periodo di Covid, eccetera. Però volevo ricordare all'organizzatrice che l'anno scorso la polemica non fu grossa, eccetera, però ci fu lo stesso, perché anche l'anno scorso c'erano 4 donne in croce. Quattro donne, guardi, che stavo controllando ora, c'era la Morante, aspetti che ho aperto la pagina del computer dell'anno scorso, del programma dell'anno scorso, poi sempre i soliti, Capostella, Recalcati, Giuliano Ferrara, Guerri, Daverio, eccetera, poi c'era Patti Smith, Poi c'era sempre Alessandro Piterno, quindi voglio dire, sono anche Morgan anche l'anno scorso, quindi sono sempre gli stessi ospiti che tornano, quindi quello. A un certo punto cerca Melania Mazzucco, queste erano le donne dell'anno scorso. Ecco, ora voglio dire quattro, insomma, quest'anno anche meno, quindi, però allora si vede che il numero che gli piace è 4, no? non lo sai, chiudiamola con un sorriso. Ma Alessandra Zecchini, ma è vero che voi siete tentati adesso a dire, ma qui insomma anche con tutto l'impegno che abbiamo, con tutti i soldi che mettiamo, privati tra l'altro, non soldi pubblici, ma chi ce lo fa fare a sto punto con queste polemiche? Ma non siamo tentati, anche perché riuscire a realizzare il festival, a portarli in scena, cioè, ci sono centinaia di persone che ruotano intorno al festival, stiamo dando lavoro ad aziende e soprattutto credo che il settore della cultura quest'anno, il settore della cultura con questo problema, è stato già detto e scritto tante volte in questi mesi, è stato uno dei più penalizzati. Sì, senza voi vedete la situazione dei teatri in Italia. Il nostro Leonardo Manera giustamente in tutto il mondo. Quindi infatti è stato, come detto anche, c'è uno sforzo enorme, a parte economico, sì, molto forte, ma anche di impegno per riuscire a presentare e riportare una cosa cui noi teniamo molto, e anche nei mesi si è riflettuto, si è parlato tanto con i collaboratori, con gli ospiti stessi, quando poi abbiamo contattati e abbiamo spiegato quello che si voleva fare, portare, riportare le persone in teatro, allo spettacolo dal vivo, sì. Togliere o almeno cercare di prevenire, di togliere questo fattore anche di paura delle persone di stare vicini. E purtroppo adesso abbiamo visto i treni, gli aerei, cioè ci sono dei settori particolari che ovviamente hanno le loro normative eccetera, ma quello dello spettacolo ha delle normative rigidissime. C'è la borsa che incombe su questo, caro Leonardo, anche tu ce lo dici spesso, insomma. Sì, sì, è sempre un po' il discorso di prima, ci sono grandi restrizioni e poi nella vita invece normale le persone fanno più assembramenti, problema. Comunque dai, io spero che abbiamo dato uno spaccato in questo, in un pacato ragionamento con Caterina Soffici, che ringrazio, tra l'altro scrittrice. D'altra parte, sempre è facile, non sempre è facile trovare gli ospiti che si vorrebbe, no? Sappiamo qualcosa anche noi quando organizziamo le nostre piccole cose, che magari cerchiamo un ospite e ci dice di no. Ma veramente ci dicono no tutti, uomini e donne. No, salutiamo e ringrazio Caterina Soffici, che voglio ricordare, tra l'altro uno dei suoi più celebri libri, Ma le donne no, è proprio contro la cultura maschilista in Italia, secondo l'autrice, e Alessandra Zecchini, coordinamento generale del Festival della Bellezza di Verona. A noi infatti dovremmo indagare su questa cosa, caro Manera, a noi dicono tutti no, solo Mauro Meazza ci si propone in un modo stucchevole anche e ripetitivo. Perché Mauro Meazza è un esibizionista, vuole essere è un presenzialista, vuole essere più presente che può, perché poi sa che grazie alla presenza può partecipare a dei convegni. Ding ding ding. Solo come fai tu pagato insomma. L'automente. Esatto. Ding ding ding. Vabbè, dai, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1 nessuno 100 Milan. Allora, 10 e 38 minuti, caro Leonardo Manera, tu hai detto che non ci sono abbastanza... No, ho detto che ce ne sono meno rispetto agli uomini, ce n'è nel campo della comicità, cioè, secondo me c'è una percentuale minore di donne proprio che lo fanno. Questo è un po' vero, ma ci ha chiamato la mitica, richiamato la mitica Giusy Valeri, attrice comica. Buongiorno Giusy. Buongiorno amici miei, io vi ascolto sempre, siete la radio più bella che esista. Che bello. Vi giuro. Io dunque, se poi potete vedere su YouTube, Concetta la do, è un monologo di attualità sconvolgente, magistrale Rai 2 30 anni fa. Cioè, 30 anni fa. Ricordiamo, 30. Infatti, Giusy non si chiede a una donna, ma lo chiedo lo stesso. Quanti anni hai, Giusy? 81, non me li sento, gioco a bridge, vado in bicicletta, cioè sto viva. Però non devo fare la costumista perché non mi chiamano, perché non lo so, non ci sono più agenti, non lo so. Le donne, ha ragione, avete ragione, le donne non ci sono perché anche non le chiamano. Non le perché, però no, però Leonardo Manera ci ha spiegato, è simpaticissimo. Ci ha spiegato che è vero, siete nella comicità, sì. E ce lo potrai dire anche tu, confermare, sono pochissime le donne rispetto agli uomini. Ma sono pochissime, ma una volta c'era Tina Pica e sì, tutte quelle vecchiette che hanno lavorato fino alla morte. Niente, io non riesco a farmi valere, chiamare e fargli fare due risate alla gente, perché io ho dei monologhi esilaranti, puoi vederlo su YouTube. Le critiche che ho avuto, io sto smantellando la casa che è un atelier, ho letto gli articoli, cioè una cosa commovente. Ah, le critiche positive, dietro. Le critiche positive, mannaggia. Positive da morire, se tu vedi sul mio sito teatrale. No. Poi la mia gente anche si è arrabbiata perché io ho vinto l'Oscar a Los Angeles, per anche i supereroi pagano le bollette, che è una nonna ninja che paga online le bollette dei figli, dei nipoti, una donna guerriera. In che senso hai vinto l'Oscar? Era un film? Come costumista? Era un film? Come pubblicità ho vinto l'Oscar. Miglior attrice. Se tu lo vedi, no, supereroi pagano le bollette da morire da ride. Anche i supereroi pagano le bollette. Ecco, ho vinto l'Oscar, ma nessuno mi si fila, io non ho capito. Parlo tutti i dialetti, ho fatto dei monologhi esilaranti, non lo so, il pubblico mi ricorda, perché 20 anni al centro di Roma non puoi passare inosservata. Mi ricorda, però non succede nulla, né televisione, né film, né cose. E la gente si è arrabbiata perché io non ho dato i soldi di questo, anche i supereroi pagano le bollette. Perché era un amico che mi ha fatto fare questa cosa, mi ha dato, mi pare, 100 euro. Ma che, posso chiamare l'agenzia e dire: guarda che ho fatto, sei incavolata perché io ho vinto l'Oscar e loro non c'erano. Ecco perché. Ma questa cosa, ho vinto l'Oscar, io non l'ho ancora capita. Però che una pubblicità che è andata in onda da dove? Dove è andata in onda questa pubblicità? È dappertutto, in Italia, dappertutto, perché poi vanno a fare le selezioni in America e vince l'Oscar chi è la pubblicità più simpatica. E ho vinto l'Oscar. Quindi c'è l'Oscar della pubblicità. Confesso la mia ignoranza, che devo dire? L'Oscar amore della mamma, amore scusa. Mamma. C'è amore della nonna. Vabbè, insomma. È Alessandro Milan, uno dei responsabili per cui tu non vieni chiamato, lui è completamente al di fuori. Aspetta, di Alessandro, ma d'altra parte io ho ancora un bel fisico, non puoi capire. Sì, e diciamo. Una proposta in diretta, sì. Oscar, è un Oscar made in Italy, ecco, ho svelato. Anche i supereroi pagano le bollette. Al Rome Web Awards. Rome Web Awards. C'ho la locandina, io mi sono rivista tutto. Anzi, c'avevo delle critiche che non avevo letto, mi sono commossa, io e mia figlia abbiamo avuto 5 anni un cabaret a testaccio, ve l'avevo detto, e venivano tutti i più grandi giornalisti, le cose, più grandi personaggi, c'era il piano, c'era il cabaret, il ristorante, e ho fatto tanto successo, però poi la notorietà non è uscita fuori perché non è uscita fuori, però la tua carriera l'hai fatta adesso. Non è... Sì, amore, però adesso io mi aspettavo che mi chiamasse in televisione a fare una battuta, una cosa carina. Che ne so, facciamo questo appello, questi talk show tutti paludati, tutti con le stesse persone, ma perché non riscoprite Giusy Valeri? Giusy Valeri, ma perché? Un po'. Dio, diciamolo. Fatto ridere tutta Italia. Diciamo, l'ha fatto ridere tutta Italia. Ho lavorato con Celentano, con tutti i più grandi, tutti i più grandi. C'ha i monologhi straordinari, è in grande forma, c'ha anche un bel fisico, ha detto Giusy. Sì, molto, molto, 42. E sono, non mi sono mai ingrassata. Capito? Appello, no, fa pure la mignotta. No, che... No. Beh, quelle mignotte vecchie ci sono, però manco quella posso fare. No. Appello a tutti i potentoni della TV che possono chiamare Giusy Valeri, ma chiamatela. Ma devi guardare ai due che con Lando Fiorini abbiamo fatto ride da morì. Va bene. Giusy, ma adesso più su di me che su Inese, a Inese. Cioè, tanta gente si ricorda ancora di me, molto. Hai ancora tanta voglia di fare, Giusy, questa ma è una cosa debole. Ma diglielo a Leonardo, che ha 52 anni dice, insomma, io quest'anno poi basta, apro un negozio di stampanti, un giorno dice che apro un negozio di stampanti. Mi è toccato fare la costumista, perché Lando Fiorini, poverini, all'inizio non c'aveva soldi. Io facevo Emma Bonino all'inferno, uscivo con la mano, sai, quella classica, con uno straccio, dico, senti Lando, Emma Bonino all'epoca era importante. Mi sono messa per terra uno straccio, ho fatto un abito tipo Angelo Vittore, ed è bello, e da allora ho cominciato a fare i costumi. Figlio mio, mi piacerebbe ancora far ridere. Beh, insomma, appello definitivo a tutti i soloni potentoni della TV. Chiamate Giusy Valeri, chiamate noi, cioè, se non avete il numero chiamate noi e noi vi diamo il contatto con Giusy Valeri. Ma poi che ma se tu vai su YouTube vedi subito i monologhi e poi vai Giusy Valeri, compare tutto, sartoria teatrale qua e là. Stupendo. Almeno la sartoria potessi guadagnare, se non vuole nessuno crescito. Manco quella. Grande Giusy, un grande abbraccio, ci sentiamo presto, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Grande Giusy Valeri, C'è Daniele da Firenze, buongiorno Daniele. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo solamente dire, ricordo che ci ho ufficicato tantissimo, a parte la saga ne hanno fatti 5 di Rambo. Ma nel primo Rambo non c'è la presenza di una donna, però chiedo, io non credo che il regista sia stato lì attento a guardare queste cose, ha fatto un film e via, cioè se uno, io capisco che oggi si strumentalizza tutto. In questi tempi sarebbe un po' problema. Cioè, sarebbe difficile, eppure poi dopo l'ha fatto con la donna. Attenzione, sfida Luchetti, Daniele, sfida Luchetti, Rambo senza una donna, prima controllo. Il primo Rambo è senza una donna, il primo Rambo è senza una donna. Non so che genere di film... Che genere di film fosse, ma io poi ricordo una Ramba come film, ma forse era un tipo di film diverso. No, sì, lo ricordo. Sei veramente... un genere diverso. Vabbè, Daniele, non lo so, questo lo dici tu, bisognerebbe verificare. Ramba. Vabbè, Ramba. Non facciamo sfida Lughetti su Ramba. Non facciamo sfida Lughetti. Però Daniele da Firenze ci dice, il regista di Rambo ha fatto un film... Gran film, tra l'altro il primo, però non mica si è posto il problema di donne. Va bene, sì, ma noi... L'ho trovato qui, ho trovato anche Ramba, ho visto cos'era. Guarda che poi arriva Beniamino a casa. Scusa, se vuoi dopo ti dice, leggo qui Ramba. Dammi il computer, vai, Ramba. Pseudonimo di Ileana Carisio, è una ex attrice pornografica italiana. Il suo nome d'arte era in principio Malù, ma il più calzante, Ramba, fu lanciato da un giornalista che si riferiva al suo look aggressivo con pistole e caricatori. Riprese il nome d'arte Malù dal 1989. Quindi è il nome d'arte di questa Ileana Carisio, Ramba. Ileana Carisio, va bene. Adesso abbiamo dato una pillola di cultura anche oggi. Anche oggi sono riuscito a dare un po' di cultura al popolo di Radio 24. Ma noi qui diamo cultura e cibo, cultura e benessere, cultura e ricette culinarie, mi sembra di capire, vero? Aia! Cari amici di Radio 24, benvenuti alla mia rubrica Le ricette facili di Giorgia, le vere ricette da tradizione italiana. Ma preparate facili facili la vostra Giorgia, perché puoi pure andare in giro per il mondo a far radica chicco coi sandali tedesco, ma non c'è sta niente di meglio della cucina italiana, italiana, italiana. Io quando vado all'estero pretendo sempre di mangiare la pizza italiana, anzi me ne porto sempre un paio di pizze congelate in valigia, poi quando arrivo in hotel me ne scaldo con la fiamma tricolore e me ne mangio. Ma no. Oggi, al grido del credere, obbedire, cucinare, prepariamo una delle ricette più famose della cucina romana, l'arancino di riso. In Sicilia la chiamano arancina, nel resto d'Italia arancino. Già sta ambiguità di genere non mi piace! O sei maschio arancino o sei femmina, arancina. Ma l'importante è che sia italiano. Non mi devi venire a dire che l'arancino è un piatto siciliano, perché in Sicilia ormai sono sbarcati tutti africani e si mangia solo cusso cusso. Quindi l'arancino di riso è un piatto romano, perché la capitale d'Italia è Roma. La capitale d'Italia è Roma. È Roma. Allora vediamo la ricetta degli arancini per tutta la famiglia, che naturalmente deve essere una vera famiglia tradizionale, con una mamma e un papà e qualche amante sparso in qualche via, perché noi amiamo la famiglia tanto che qualcuno ce n'ha pure due o tre. L'ingrediente principale per fare l'arancino di riso è il riso, ma mi raccomando, riso italiano, non riso cinese, che quelli copiano tutto, ci hanno copiato pure il riso, anche se il riso cinese lo riconosci subito, perché i chicchi sono tutti uguali, piccoli, gialli e coi capelli neri. Continuiamo con questa ricetta, che poi c'è da gridare un comizio. Prendete il burro e lo zafferano, che deve essere il famoso zafferano di Torpignattara, e mescolate senza paura. Poi intanto fate riposare il riso, dedicatevi al ragù. Il ragù lo potete pure comprare. L'importante è che sia un negozio italiano e non un negozio gestito da qualche pakistano o qualche bangladino. I negozi italiani si riconoscono subito, perché quando hai pagato te ne puoi andare. I negozi dei pakistani o dei bangladini si riconoscono subito, perché dopo che hai pagato non te ne puoi andare, perché il pakistano vuole che ti compri anche una rosa e insiste. No, quando hai già pagato il conto. Non è vero. Adesso aggiungete, non mi interrompe, radica scicco, mina radica scicco, aggiungete cipolla, piselli, vino rosso, cacio cavallo e un po' di prosciutto. Prosciutto italiano, del maiale con passaporto italiano e che grunisce italiano. Mettete tutto insieme al riso, dagli una forma d'arancino, una bella palla rotonda, come viene viene, senza pensare troppo, che tanto se gli ingredienti sono veri italiani, qualcosa di buono viene fuori. E gustatevelo con del vino italiano, quello buono, del contadino, del vino dei castelli, perché quelli che pensano troppo sono nemici del popolo italiano. Invece le ricette per tutti sono quelle facili facili, le ricette facili de Giorgia. La capitale d'Italia è Roma. Ecco. Roma. Va bene, va bene. Attenzione, c'è un cultore di Rambo che ci scrive. No, di Rambo ho detto. Rambo, a parte che hanno detto che tu potresti manera a fare rimba. Sì, rimba, rimba. In Rambo c'è una scena in cui si vede la madre del commilitone morto in Vietnam all'inizio del film. Sarà 15 secondi, credo, 30 secondi in cui anche un'attrice si produce in questo film. Quindi, vabbè, però, insomma, sai che non so se i potenti mezzi della radio consentono di raggiungerlo, ma Carlo Verdone ha fatto una dichiarazione ha fatto una dichiarazione in cui diceva che a forza di politicamente corretto non si può più fare nulla. Sta scrivendo, se non sbaglio, la sceneggiatura di un film, e per essere troppo attento al politicamente corretto dice che diventa un guaio. Cioè, noi possiamo raggiungerlo, ma lui sai cosa ci risponderà? No, non vengo, come tutti, ma no, come la maggior magari, parte. Beh, questo è vero, noi non riusciamo ad avere, cioè, ospiti. Raggiungerlo lo raggiungiamo in un secondo e ci dirà no. No. Grazie. No, no, ma invece secondo me Verdone dice sì, perché questo credo sia un tema a cui tiene, magari ci è una sfida, ci tiene a divulgarlo anche attraverso la radio. Per domani contattiamo Carlo Verdone e vediamo un po', vediamo. Poi ti faremo sapere, caro Manera. Va bene. Io sono convinto che accetterà. Senti, fai così, Miria, ditegli, Carlo Verdone, non ditegli che c'è Leonardo Manera, magari c'è una possibilità. Dite, ospitate. La stima nei miei confronti è sempre alta. Vedo. Ci troviamo domani. Domani sarai qui? È vera questa cosa? Domani vengo, sì sì, salvo imprevisti, domani dovrei venire in Irlanda. Anche stamattina avrei voluto venire. Stamattina avrei voluto venire, però la sveglia è suonata le 8:30. Io ero ancora abbastanza rimbambito, assonnato, ho detto ma sì, dai, resto a casa. In Rambo c'è anche la cameriera del ristorante. Vabbè, ho capito, dai, su, la cameriera. A domani, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.